a toccare la seconda parte della prima lezione, no? Che cerca di rispondere al quesito perché a Trento, perché a dire il vero tutta quella, direi, necessità di concilio che abbiamo visto era nell'aria, no? Si condiziona, si riferisce ad una situazione molto concreta, all'esplosione luterana in Germania e alle trattative che ne conseguono. Allora è ben legittimo riflettere che cosa pensava Lutero del concilio, però distinguerei subito qui il suo caso personale, dove di fronte alla condanna papale del 1520 ha fatto anche lui, come facevano tanti altri condannati dalla sede romana, un appello al concilio per sospendere la sentenza, no? Ecco, e poi il resto del discorso del suo pensiero sul concilio, che va evolvendosi in realtà, cioè nel 1518 Lutero considera ancora il Concilio Universale come la suprema istanza dentro la Chiesa, infallibile, le cui decisioni sono ultime ed irreversibili, ma lui stesso nel seguito della controversia, soprattutto nel contesto della controversia di Lipsia, è arrivato ad una posizione invece che anche riguardo al Concilio esclude un carattere ultimativo, una definitività assoluta, perché sostiene nella disputa anche i concili hanno sbagliato e cita alcuni casi dove secondo lui questo è accaduto e quindi neanche il concilio per sé è l'istanza suprema e infallibile che si accerta, si esprime proprio attraverso questa maturazione di idee e questo seguito di pubblicazioni, no? E per lui la parola indefettibile e infallibile è la scrittura, la fede viene solo dalla scrittura, neanche dal concilio, questo il suo pensiero personale, diremmo. Però Lutero si inserisce anche nella dinamica di tutta la situazione del tempo, è espressione anche della situazione, del pensiero di molti, e qui è molto più interessante vedere come lui si inserisce in questa, direi in questo postulato di concilio che è così sparso e naturalmente anche interpretato in termini molto diversi a seconda dei casi, a seconda delle correnti di pensiero e così via. Ecco, il pronunciamento più caratteristico è quello che si trova nel primo dei tre famosi scritti rivoluzionari del 1520, il proclama alla nobiltà cristiana della nazione tedesca, dove per rompere il giogo dei romanisti, dice lui, invita, anche con un linguaggio molto efficace, è vero, ad abbattere le tre muraglie dentro le quali i romanisti si sono barricati in modo da non lasciarsi più debellare. La prima muraglia è quella della soggezione del potere temporale al potere spirituale. La seconda muraglia è la privativa di interpretazione che riserva all'autorità, in modo particolare all'autorità magisteriale del Papa, l'interpretazione della scrittura, in modo che non si può mai costringerli a render conto ricorrendo alla scrittura. E la terza muraglia è quella che riguarda il concilio, perché anziché accettare un concilio che fosse come quello di Costanza, almeno in casi estremi, in condizioni da imporsi, vero, anche al Papa, invece hanno maturato una dottrina per la quale il Papa non è soggetto al Concilio e il Concilio non può esistere senza il Papa. Anche questa terza muraglia va dunque travolta se si vuol procurare il bene della Chiesa. E a questo fine la terza muraglia, dice, crolla da sé quando crollano le due precedenti. Infatti, se il Papa si comporta in modo contrastante con la Scrittura, noi dobbiamo difenderla e punirlo e costringerlo secondo la parola di Cristo, Matteo 18, se tuo fratello pecca contro di te, va a parlargli da solo e se egli non ti ascolta, eccetera, allora trattalo come un pagano. Ecco, e da qui deduce l'obbligo, non soltanto la facoltà, l'obbligo per tutti quelli che amano la condizione della Chiesa, di intervenire concretamente. Questo obbligo va interpretato ad opera dell'autorità civile, ad opera dei principi e dell'imperatore. Pertanto, dice, ove necessità lo richieda e il Papa sia di scandalo alla cristianità, il primo che può, come membro fedele del corpo intero, chiunque, qualunque cristiano, è abilitato e obbligato, naturalmente, e in modo speciale quelli che hanno il potere di promuoverlo con una certa efficacia. Il primo che può, come membro fedele del corpo intero, deve promuovere un concilio libero e giusto, ma ciò nessuno può farlo bene quanto il potere temporale, specialmente perché esso è pure parte della cristianità, partecipa al sacerdozio, appartiene al ceto spirituale con eguale potestà in tutte le questioni. È il suo ufficio e l'opera sua che esso ha da Dio sopra a chiunque, devono procedere liberi là dove sia utile e necessario intervenire. Ecco, non sviluppo ulteriormente, cioè uno sviluppo più completo di questo genere di concilio, vero, che ogni cristiano, se necessario, deve promuovere e che l'autorità politica, dall'autorità dei duchi o dei conti o dei principi territoriali fino all'autorità dell'imperatore, hanno l'obbligo di promuovere quando la necessità lo richiede. Allora, in questo modo, vedete, la richiesta è fortemente, fortemente surriscaldata e in queste pagine, in realtà, Lutero non tratta l'appellazione al concilio personale per la sua questione, per il suo processo personale, ma interpreta, è uno degli interpreti, vero, della situazione generale. Ecco, allora vediamo un po' come si evolve questa situazione generale. Abbiamo intanto il processo di Worms, vero, nel 1521, dove formalmente la Santa Sede, tramite il nunzio, chiedeva ai principi tedeschi di convalidare la condanna romana. L'imperatore era propenso, tant'è vero che, conchiusa tutta l'operazione Worms, l'imperatore viene a emana a un certo punto un editto per conto suo, perché la dieta nel suo insieme non accetta il suggerimento o la richiesta fatta dall'imperatore di condannare, cioè di applicare pure e semplice la condanna a Lutero, ma lo vuol sentire, e qui c'è un momento propagandistico di primissimo ordine, la convocazione dell'eretico davanti alla dieta dell'impero, e anche quando Lutero, di fronte alla domanda se riconosce per suoi i libri che gli sono attribuiti, secondo, se è o non è disposto a ritrattare, no? Lutero rifiuta qualsiasi ritrattazione, e la dieta dell'impero non arriva alla decisione di applicargli la pena, il bando dell'impero, che vuol dire la pena di morte, è vero, se lui si lascia trovare entro i termini, semplicemente perché quelli che dovrebbero poi applicare questo, che sono il suo diretto sovrano, i principi di Sassonia, e gli altri principi non ritengono di dover addivenire a questa decisione che viene presa per tutto l'impero dall'imperatore con un editto, non con una con una decisione collegiale, con un editto personale dell'imperatore, che spera che uno alla volta, dopo i principi germanici, vengano ampi uniti consili, si riserva di trattare coi singoli per convincerli ad applicare. Comunque a Worms di concilio ufficialmente non si è parlato, benché questi fossero i pensieri che circolavano nell'assemblea, e non si è parlato perché il nunzio papale, benché affiorassero nella dieta per l'ennesima volta i gravami della nazione tedesca, cioè le lagnanze e le rimostranze contro le ingerenze romane, ma riuscì ad accantonare per quella volta, cioè a impedire, a convincere che non era opportuno neanche per i promotori, vero, di formalizzarla in una richiesta di concilio, perché il Papa probabilmente per conto suo stava pensando a questo. E così di concilio si riparla. Invece, un anno, quasi 2 anni dopo, nella dieta di Norimberga del 1522-23, che avviene sotto il governo di un altro pontefice, di un altro papa, il successore di Papa Leone X, un papa totalmente diverso, olandese, l'ultimo papa non italiano, tra l'altro prima dell'attuale papa, no? Adriano VI, teologo e giurista proveniente da Utrecht, ma poi al servizio di Carlo V molto a lungo nelle Spagne, uomo che rappresenta e conosce molto bene il respiro della Chiesa europea di allora, e che instaura un registro totalmente diverso. Cambio di regime, quale più forte non si poteva immaginare, dalla Roma rinascimentale del secolo d'oro di Leone X, a quest'uomo che nel suo modo nel suo tenore di vita è estremamente sobrio, fortemente religioso, dedico a pratiche di pietà, eccetera, alieno da tutte gli splendori del Rinascimento che erano diventati di moda, cambio anche di persone, di consiglieri e di intenti. Sotto qui Adriano VI ha dunque da presenziare a questa prima dieta che adesso avviene ancora in tempo in cui in Germania il tutto è in sommovimento. Noi non dobbiamo pensare la cristallizzazione delle forme di vita e delle chiese protestanti fin da questo tempo. Il tutto è in fermento, in una situazione fluida, e in questa situazione fluida egli manda un legato suo, il cardinal Chierigati, alla dieta con una dichiarazione che in realtà è stupefacente ancora per noi oggi, perché in quel clima, in quella situazione, mai era accaduto che la Curia Romana arrivasse ad ammettere per prima essa stessa la necessità di riforme profonde e incisive, e la responsabilità, a dichiarare la responsabilità di tutta una situazione che era diventata intollerabile. È un classico documento di accusa e di domanda di riconciliazione fatta sulla confessione della necessità generale della riforma, che deve cominciare dalla Santa Sede. Era tanto improvvisa questa dichiarazione che i realisti, i politici e così via dell'ambiente germanico, e quelli che ormai conoscevano anche appunto quanto sono difficili da riformare certe situazioni, prestarono fede solo limitatamente a queste dichiarazioni e non si lasciarono per nulla impressionare o distogliere dai postulati che essi molto decisamente portavano avanti. E il postulato dei postulati qui sì si andò formulando anche in una concorde decisione della dieta per rimediare questa situazione. occorre addivenire ad un concilio libero, cristiano, in terra tedesca. La formulazione è della prima dieta di Norimberga 1522-23. E sotto questa formula si trovano impegnati tutti, direi quelli che sono molto affezionati alla Chiesa vecchia con i suoi vecchi sistemi, come quelli che sono i più eversivi in tutta la situazione. Abbiamo qui un punto cardinale che dunque fissa per impegno della dieta, non soltanto per volontà dell'imperatore, come impegno della dieta intera. Filo protestanti o filo cattolici che siano, vero, la volontà di risolvere la questione religiosa anche delle verità di fede della riforma, vero, in un desiderato e postulato concilio libero cristiano in terra tedesca. Allora, se parlo di Trento, vedete, l'ultima parola in terra tedesca è quella che poi dirige l'ulteriore corso degli eventi e ci spiega perché a Trento. Perché fino a questo punto, direi, un punto d'incontro si andava profilando. Purtroppo anche col rovescio della medaglia, perché fino al concilio tutti questi ritenevano che qualunque cosa facesse il Papa o l'imperatore, la cosa rimaneva indecisa. Quindi per sé il concilio era urgentissimo, in una situazione ancora tutta fluida. Ecco, un anno dopo, sapete, il pontificato di Adriano VI è stato una meteora molto breve, poco più di un anno, e in tutto questo primo avvio ha avuto subito un arresto con la elezione del secondo Papa Medici, Adriano Clemente VII, nel 1523, no? Con la delegazione di un delegato papale che alla seconda dieta di Norimberga nel 1524 adesso interpreta il modo di sentire e i criteri di governo del nuovo Papa, che non era per niente incline alla convocazione del concilio, che nel concilio vedeva tutti i pericoli reali. Noi lo comprendiamo, perché il concilio, il ricordo di Basilea era senza dubbio ancora da non cancellato, no? E quindi senza dubbio non molto propenso a far camminare, pur guidandola, prendendola in mano lui, la vicenda, questa decisione relativa al concilio, al punto tale che furono proprio certi stati cattolici come la Baviera, che vedendo che da parte papale senza dubbio una risposta pronta e decisa a questo postulato di concilio non veniva, avanzarono la proposta di intervenire subito, entro un anno, tramite una convocazione nazionale, un concilio nazionale tedesco, un sinodo generale della Chiesa tedesca, già convocato a Spira per il 15 luglio del 1524. Qui il legato papale, che era Lorenzo Campeggio, giurista esperto della Curia Romana e presente in tutte le vicende che susseguono, anche molto, molto, direi, molto sostenitore della posizione del Papa, intuì subito il pericolo enorme che in questa proposta era nascosto, cioè il pericolo che a un dato momento la Chiesa germanica per conto suo finisse per darsi un regime sia dottrinale sia organizzativo, no? Che non teneva conto per niente del resto del retroterra della Chiesa universale, no? E quindi si mobilitarono subito le forze anche della diplomazia presso l'imperatore che vive e interpreta un orizzonte universale, comprese egli stesso si appropriò della sensazione del pericolo e intervenne a questo punto a cassare a invalidare la decisione della seconda dieta di Norimberga convocare un concilio nazionale, impegnandosi solennemente per conto suo, entrando dunque in azione con tutta la sua autorevolezza per dire: non facciamo concili nazionali, non è possibile risolvere una questione di questa mole tramite concilio nazionale, ma la questione va risolta tramite un concilio universale. E da qui innanzi l'imperatore, nel modo più solenne e pubblico, si rende interprete di quel voto della dieta e si impegna con tutte le forze ad essere lui stesso promotore di un concilio universale presso il Papa o presso chiunque, anche presso i vari monarchi cristiani, in modo che, insomma, questa iniziativa non debba andare a vuoto. Ed è proprio in questa occasione, 1524, che si comincia anche a parlare più concretamente di luoghi, furono fatti nomi vari a proposito del luogo, affiorano i soliti nomi delle città lungo il Reno: Strasburgo, Colonia, Magonza o Metz, no? I territori tra la Francia e la Germania, però già in questa occasione affiora anche il nome di Trento, del quale Carlo V in questa occasione, sia nella corrispondenza con la Santa Sede, sia nelle varie corrispondenze dei suoi ambasciatori, dice: potrebbe ben essere anche Trento che può ancora valere come una città tedesca, benché sia italiana. Così è fin da allora, in certo qual modo, si delinea la ipotesi. Trento che può ancora valere come città dell'impero germanico, per il fatto che il suo sovrano ha sede nella dieta degli stati germanici, e insieme non dovrebbe essere così sgradita e neanche vista come rischiosa da parte del Papa, perché si tratta di uno stato ecclesiastico retto da un cardinale, è il cardinal Clesio in realtà il vescovo di Trento in quest'epoca, ormai molto, molto attivo presso la corte dell'imperatore, del re dei Romani Ferdinando, e indubbiamente il suggerimento viene da questa parte, non c'è dubbio. Qui affiora per la prima volta il nome di Trento. Trento, che è al limite meridionale dell'impero germanico, è sul versante italiano, quindi anche per il Papa, che dal concilio teme un mare di pericoli, vero, più facilmente raggiungibile, più direi numerosamente frequentabile ad opera di prelati dell'ambiente italiano e più fedeli al Papa, e quindi non esposto ai rischi che altrimenti un concilio in Germania potrebbe comportare. Ecco, 1524, la prima volta della menzione del luogo possibile. Naturalmente la cosa andò molto per le lunghe, perché sotto il pontificato di Clemente VII tutte le trattative dell'imperatore per realizzare questo voto andarono purtroppo fallite. Iedin fa una considerazione molto significativa a proposito della ipotesi: un concilio a Trento nel 1524 sulla base di questa concordia, pur così problematica, ecco, veramente sarebbe stato in grado di risolvere il problema. Per un'infinità di ragioni, la solidificazione dei territori protestanti è ancora tutt'altro che compiuta, la situazione sociale e politica in Germania è quanto mai confusa. Nel 1525 abbiamo la guerra rustica, che porta a rivedere molte di quelle idee un po' impazzite. Non sono ancora costituite per niente chiese territoriali protestanti. I principi stanno un po' a vedere ancora da che parte mettersi. Tutta la situazione era molto, molto più fluida ancora. E veramente nel 1524 un atto decisivo con delle dichiarazioni precise e un regime che risolvesse anche la questione della riforma certamente aveva delle chance probabilissime di successo. La cosa non riuscì per un complesso di ragioni che adesso io non sto più a riprendere. Prima di tutte la paura anche personale, l'antipatia radicale di Clemente VII verso l'iniziativa Concilio, la paura che prendesse il sopravvento la politica imperiale, l'indirizzo politico del secondo Papa Medici, ultra preoccupato di un eccessivo consolidamento della monarchia di Carlo V, della autorità imperiale che arriva a condizionare tutta la politica europea e addirittura poi nel 1526 mi pare il passaggio esplicitamente, cioè politico, all'alleanza con la Francia da parte dello Stato Pontificio, no? La uscita del Papa dalla neutralità politica e lo schieramento con la Francia, con la ripercussione della guerra in Italia, la guerra contro la Francia ma anche contro i suoi alleati, con i rovesci del sacco di Roma tra l'altro e così via, no? Guerra al posto del Concilio, in una situazione in cui il Papa figura come il nemico numero uno del Concilio e insieme della iniziativa dell'imperatore. Si arriva in questa occasione anche ad una esplicita dichiarazione che da parte dell'imperatore, che nel 1526 quasi sfida il Papa, cioè interpreta quella posizione che abbiamo sentito trapelare anche nel testo di Lutero, vero, che in casi estremi chiunque è obbligato a urgere perché il concilio si faccia, ma anche questo non ha giovato e il Papa Clemente VII in realtà nella storia della Chiesa non gode eccessivo favore, benché dal lato morale e personale sia ineccepibile, è ritenuto come il pontificato più disastroso che nel secondo millennio la storia ecclesiastica ha avuto, per questa posizione che in fondo al cuore è avversa fino alla fine alla convocazione del concilio e che nel modo di fare non è mai chiara, non si arriva neanche mai ad una esplicita dichiarazione di contrarietà, ma sempre ci si incontra con clausole insuperabili, con attese motivate nei modi più vari e così via. In realtà è vivente Clemente VII di concilio non sarà possibile realizzare neanche un passo reale in avanti, e pur in mezzo a tutte le trattative che sono andate evolvendosi, Seripando, che è certo un uomo, il cardinal Seripando, amante della riforma e vicino al nervo dei problemi, dice che in tutte queste trattative de concilio verba e de reformazione molte parole sono state fatte, ma solo parole, non passi in avanti. Abbiamo nel frattempo la pace di Barcellona, dopo che il Papa insieme con la Francia è stato sconfitto da Carlo V. Abbiamo nel 1530 un incontro del Papa e dell'imperatore a Bologna, nell'occasione in cui il Papa diede all'imperatore Carlo V la formale incoronazione imperiale col vecchio rituale del Medioevo, no? Celebrata a Bologna, e Papa e imperatore dimorarono per più di una settimana insieme nella stessa casa, Qui ci furono certo anche molte parole, molti discorsi diretti per arrivare a convincere. Il Papa non fu convincibile, allora si ripiegò su altre soluzioni. La dieta di Augusta del 1530, proviamo se in un incontro, un colloquio, un confronto delle idee, forse è possibile ricomporre le cose. 1530 intanto si profila, da un lato, una codificazione più esplicita di quelle che erano non già le opinioni di Lutero, ma le opinioni di tutti quelli che stavano realizzando la riforma a modo loro in Germania. E dall'altra, siccome tutti comprendono che la cosa già a quest'ora non è più componibile, la costituzione di coalizioni anche politiche e militari, da un lato da parte dei protestanti che insomma prevedono che dovranno difendere anche con le armi un tentativo di imposizione violenta della forma cattolica, e da parte dei cattolici anche per sostenere l'applicazione o la conservazione della forma tradizionale della Chiesa nei rispettivi territori. La situazione cambia appena sotto Paolo III, 1534, quando ormai sale alla cattedra pontificia un uomo di quelli che anche nell'ambiente romano si erano convinti che il concilio non è evitabile. E Paolo III viene molto lodato dagli storici cattolici, appunto come il Papa che finalmente ha cambiato corso, che finalmente ha compreso che il concilio assolutamente occorreva. Ecco, ed è giusto ed questa lode. Tuttavia, molte volte si eccede, perché questo non vuol dire per niente che Paolo III avesse avuto l'intenzione di promuovere il concilio ad ogni costo, con qualsiasi rischio, dove che sia, pur di farlo. Paolo III è molto guardingo nei passi che compie, perché appunto il concilio non debba poi risolversi in un disastro. E così abbiamo un primo sondaggio che Paolo III fa attraverso i suoi nunzi, attraverso le corti europee, dove va proponendo luoghi come possibili per la celebrazione del concilio, come Mantova, Torino, Piacenza o Bologna. E dopo un primo sondaggio una seconda legazione che ormai porta la decisione formale, la convocazione del concilio a Mantova per il 23 maggio del 1537, dunque nella città di Mantova, città che non è dello Stato Pontificio, città che è neutrale nel contesto della politica interna italiana, città che è per sé feudo imperiale, certamente molto più idonea di Trento dal lato logistico, dal lato del vetovagliamento e così via, non fosse altro che perché Mantova conta in questo tempo circa 35.000 abitanti, ha una corte splendida, una famiglia che ha anche poteri militari e truppe per difendersi, ecco. Mentre Trento conta appena 7-8 mila abitanti, è una città molto più angusta, anche per le vie di comunicazione molto più disagevole. Ecco, la convocazione formale piena del Concilio a Mantova è stata notificata in piena forma anche al gruppo dei protestanti, che nel frattempo si erano coalizzati nella famosa Lega di Smalcalda, che è un potentato politico ed insieme anche militare, no? Dai quali però la risposta fu di una netta ricusazione, perché non riconoscono nel concilio siffatto, promosso in queste condizioni, presieduto, diretto dal Papa, non riconoscono quel concilio libero. Per libero essi intendevano in tutta la pubblicistica libero dal Papa, libero da ogni autorità papale. Perché? Perché il Papa in certo qual modo veniva esaminato e giudicato, concilio doveva poter pronunziarsi su una serie di competenze papali, quindi mettere il Papa sopra, no? Allora non è libero per questo motivo, anche se invece è garantita la libertà di parola, di andare e venire e così via, no? Cristiano, anche questa parola molto di compromesso, che può venire intesa in modo ortodosso, cristiano loro lo intendono fatto in modo da giudicare solo sulla base della scrittura, che prenda solamente la scrittura come pietra di paragone. In terra tedesca, ovviamente Mantova non è in terra tedesca, e questa è la motivazione per cui qui comincia una ricusazione ufficiale da parte degli stati protestanti, che però nel frattempo sono andati costituendosi e anche costruendo un loro genere di vita. Praticamente gli stati protestanti a quest'epoca hanno abolito la giurisdizione dei vescovi, hanno messo nelle mani dei rispettivi principi l'incameramento, il patrimonio dei beni ecclesiastici delle rispettive zone, hanno assegnato al governo di tutti questi principati il governo, cioè la facoltà di dettar legge, di determinare le nomine e anche gli indirizzi sia della vita liturgica, sia del mondo culturale, dell'insegnamento religioso, sia del contegno degli ecclesiastici, no? Già a questo punto la differenziazione è già molto forte. Come sapete, a Mantova all'ultimo momento la convocazione è fallita, per ragioni che non sono ancora del tutto chiarite, perché il duca di Mantova, a un dato momento, ha messo delle condizioni veramente impossibili, ha chiesto che la città fosse presidiata da un numero di armati molto consistente, che il Papa o l'imperatore avrebbe dovuto mettere a disposizione, clausola che non era prevista, e che invece era necessaria perché la sicurezza del concilio però voleva essere garantito militarmente da altri, clausola molto difficile da adempiere perché avrebbe dato a chi non voleva venire il pretesto a dire noi ci troviamo in una fortezza armata dove la libertà necessaria alla presenza conciliare non si può realizzare. Ecco, e così si trasferì all'ultimo momento questa convocazione a Vicenza, in territorio della Repubblica Veneta, dove per più di 2 anni si prolunga l'attesa senza praticamente una rispondenza, senza che in realtà si faccia sul serio con la convocazione, tanto più che le tensioni militari e politiche tra la Francia e l'impero. La Francia è in questo momento l'amico sotterraneo dei protestanti, per una ragione molto semplice: per impedire che si rinforzi il potere centrale dell'imperatore. E quindi quella che trattiene anche il Papa da passare a disposizioni operative. Così che ritorna più volte nel frattempo il tentativo di colloqui di religione, di cui l'ultimo si ebbe a Regensburg nel 1541, un ennesimo tentativo di unione, di colloquio ecumenico, di confronto delle idee, a cui parteciparono da parte protestante uomini non eversivi, abbastanza vicini alla linea tradizionale, e da parte cattolica anche, soprattutto quel cardinal Contarini, amante della riforma, anche molto vicino al mondo dell'umanesimo e della riforma spirituale in Italia, che per certi versi accettava anche certe formulazioni luterane sul tema della giustificazione, solo che anche lì il colloquio, dopo speranze iniziali, purtroppo fu vano, e il cardinal Contarini stesso, raccogliendo e portando a casa l'insuccesso di un tentativo di unione che egli aveva con grande fatica di convinzione aveva cercato di portare avanti, dovette arrivare lui stesso alla convinzione che ormai tra i due gruppi domina un concetto di Chiesa talmente diverso da non poterlo comporre insieme. Non è solo la discussione relativa al dogma della transustanziazione, ma è la sensazione che ormai mancano le basi per un'intesa comune, perché il modo di concepire la realtà Chiesa si è terribilmente differenziato tra le due parti. E a questo punto è il Papa che prende l'iniziativa, per ragioni varie, perché tra l'altro nel frattempo il pericolo protestante, la sensazione che il protestantesimo non era una faccenda puramente germanica, ma che andava dilagando anche in Italia e a Roma stessa, vero, era andato affiorando, per cui la necessità di arrivare almeno per la chiarificazione dogmatica delle dottrine ad una definizione divenne evidente. È il tempo dove a Roma si scoprì eretico perfino il generale dei Cappuccini, Bernardino Occhino, e altri predicatori insigni che godevano grande popolarità. No? A un certo punto furono trovati eccessivi, ecco, è il tempo in cui a Roma si riorganizza l'Inquisizione, 1542, no? E che naturalmente va a cercare, scopre focolai di dottrine aberranti un po' dappertutto. E a questo punto il Papa Paolo III prende la decisione, insieme in un incontro con l'imperatore a Lucca nel 1541, di promuovere il concilio. Anche qui si parla di luogo, e come in tutte le trattative che si erano avute nel frattempo, il nome di Trento riaffiora più e più volte, ma è ben chiaro che proprio in questa occasione Trento è sostenuta decisamente dall'imperatore. Il Papa lo accetta nel colloquio del 1541 avuto a Lucca con l'imperatore, però con molte difficoltà che vengono ancora aggravate in sede romana dai consigli dei vari consiglieri del Papa, che da un lato obiettano l'antipatia, l'opposizione dei francesi a ritrovarsi a Trento, dall'altro la insicurezza e la precarietà e la relativamente modesta consistenza della città. Trento è troppo piccola, malsana e difficile da rifornire, questo è un po' il parere dei consiglieri del Papa. Però qui finalmente il discorso su Trento diventa serio. Direi che per le discussioni, per le trattative precedenti, Trento è uno dei nomi che affiorano, che vanno e vengono nelle varie trattative. Qui a questo punto, nel 1541, la proposta Trento viene messa avanti con decisione dall'imperatore, anche se da parte papale c'è una riluttanza che si fa sentire sempre di più. Tutti gli altri nomi, le alternative che vengono presentate sono ancora Mantova, Piacenza, Modena, Ferrara, Treviso, Liegi e Cambrai nei Paesi Bassi, dunque tutti i nomi possibili e immaginari. In questa situazione avviene, per dare seguito a questi propositi, una missione del legato papale che è Giovanni Morone, giovane ancora vescovo di Mantova e certamente il diplomatico più intelligente in tutta questa situazione, quel tale a cui il Concilio di Trento deve in realtà il suo inizio e anche la sua felice conclusione, che viene inviato per le trattative con gli stati protestanti alla dieta di Spira del 1542. Passando per Trento ebbe colloqui col cardinal Madruzzo, il nuovo vescovo di Trento succeduto al Clesio, e certamente guardò molto bene la città nelle sue possibilità logistiche con i propri occhi e partì convinto che questa costituiva veramente una possibilità concreta. Partendo aveva avuto istruzioni dal Papa di puntare su Cambrai, ma se proprio non fosse possibile altro, al limite accettare anche Trento. Con queste istruzioni inizia le discussioni di fronte alla dieta, se non che dopo che le discussioni erano già aperte e le dichiarazioni del nunzio papale erano già avvenute, riceve un controordine da Roma dove si ordina di puntare solo su Cambrai, di lasciar stare Trento. A questo punto il Morone ha giocato un gioco diplomatico abbastanza rischioso, perché anziché fermare tutta la discussione e confessare il controordine che aveva avuto, lasciò che la dieta completasse la discussione, e la dieta di Spira del 42 unitariamente si decise per Trento, riconobbe in Trento quel luogo in terra tedesca di cui appunto da tempo si parlava, in cui il concilio sarebbe stato accettato, no? E il Morone, dopo formalizzata questa decisione unanime della dieta, come era suo dovere, comunicò gli ultimi ordini avuti da Roma con un riverbero disastroso, come è comprensibile, una levata di scudi da parte della dieta, e riferì poi a Roma quella che era stata la reazione totalmente negativa da parte della dieta, che Trento lo aveva accettato, e con questo mezzo, no, in realtà riuscì a inchiodare questa volta il luogo di Trento. Il Papa così fece la prima convocazione a Trento per il 22 di maggio del 1542, la prima convocazione del Concilio a Trento data al 42, e nella bolla solenne che la indice, esplicitamente dice che lo convoca nella città di Trento, luogo comodo e libero e a tutte le nazioni convenienti. E invia, nomina già per questa, nello stesso documento, i tre presidenti papali, i tre cardinali legati che in nome del Papa devono recarsi a Trento e guidare, esercitare la presidenza del Concilio, anche se in quest'epoca ci si immagina da una parte e dall'altra che una volta avviato il Concilio converranno a Trento sia il Papa che l'imperatore, e nelle preparazioni logistiche che si fanno è previsto anche al Castello del Buon Consiglio, vero, lo stanziamento del Papa e dell'imperatore per il momento in cui il Concilio sarebbe entrato veramente nel suo periodo più attivo. Ecco, e i tre cardinali sono per sé eminenti: uno è il Morone stesso, l'altro è il cardinal Pole, l'inglese, molto aperto per il mondo umanistico e della riforma, e il terzo è il giurista papale, il cardinal Parisio. C'è stata una presidenza del concilio già stanziata a Trento nel 1542, e nei documenti del Concilium Tridentinum abbiamo una serie di lettere anche del commissario papale per il concilio, così è chiamato, un vescovo meridionale, il vescovo di Cava dei Tirreni, Tommaso Sanfelice, che era incaricato dalla corte papale di descrivere il territorio e di prendere quelle disposizioni organizzative che garantissero la possibilità di vita sul posto. Forse a qualcuna di esse ci riferiremo dopo, descrivendo la città e la situazione che essa allora presentava. Purtroppo questa iniziativa non riuscì. Perché? Perché di lì a pochi mesi scoppiò la guerra aperta tra l'imperatore e la Francia. E quindi tutto si ferma per lo stato di guerra. Il Papa è costretto a sospendere questa convocazione con un atto esplicito di sospensione, non di cancellazione della convocazione, ma per ragioni di forza maggiore il concilio viene sospeso, malgrado tutti i preparativi che in realtà già erano in corso, no? E la cosa si dilaziona di altri 2 anni, fino a guerra finita, quando nel 1544 l'imperatore riesce a debellare il re di Francia, e nella pace di Crepy, seguita a questa guerra, impone tra le condizioni di pace allo sconfitto re di Francia, dunque si ingerisce al punto tale da imporre come condizione militare della resa francese che il re di Francia parteciperà al concilio ecumenico, mandando un numero adeguato di vescovi francesi e di teologi dalla Francia nel luogo e nel momento in cui l'imperatore glielo imporrà. Naturalmente questo è già quasi troppo per la sede romana, perché qui l'iniziativa imperiale va avanti decisamente, e l'unico modo per non perdere l'iniziativa, per non perdere il treno, è riprendere in mano subito la convocazione del concilio da parte del Papa, e qui si arriva finalmente alla convocazione che divenne quella reale, vero, per la domenica letare, la quarta domenica di Quaresima dell'anno 1545, no? Levando la sospensione pronunziata sulla convocazione precedente, cioè formalmente è ancora quella stessa convocazione che viene adesso rinvigorita, vero? Convocando anche da parte papale, col consenso dei regnanti, vero? Il concilio a Trento per il marzo del 1545. La situazione ha comportato una serie di dilazioni. L'effettiva apertura, come sapete, si è avuta il 13 di dicembre del 1000, cioè nella domenica Gaudete, nell'avvento successivo, però con il medesimo decreto. Ecco, in questo modo il concilio è venuto a stanziarsi a Trento. Voi capite anche che non è solo questione geografica, qui c'è di mezzo una pluralità di programmi. Il Papa, dal canto suo, il concilio a Trento non lo vede di buon occhio e non l'ha mai visto di buon occhio, lo trova eccessivamente rischioso, però a determinate condizioni lo accetta ancora, purché insomma quelle garanzie stiano in piedi. Da parte dell'imperatore Trento è il limite massimo che si possa accettare. Perché? Perché almeno questo postulato dei protestanti bisogna onorarlo in terra tedesca, no? L'ultimo lembo di terra tedesca su cui ancora si può puntare. E così però comprendete come attraverso tutto il primo e il secondo periodo del concilio i due programmi che stanno dietro a queste idee e che erano arrivati qui a un equilibrio delicatissimo di compromesso. Certamente si contendono uno contro l'altro, fortemente si contendono uno contro l'altro, al punto che minacce di portar via il concilio da Trento, quando il Papa si accorge che viene dominato eccessivamente dall'imperatore. Oppure la gestione che manda avanti volentieri, anzi certe volte anche forzandola, la discussione dei temi dogmatici, dei temi di fede, che sono quelli che alla sede romana più premono e d'altro canto meno comportano rischio, vero? Rispetto ai temi della riforma, che sono quelli che premono all'imperatore e alla Germania, e che potrebbero venire discussi anche prima che i protestanti vengano a Trento ed essere testimonianza di buona volontà, ma che costituiscono un rischio mortale per la sede romana. Programma imperiale, programma papale, che dentro il concilio stesso si combattono e arrivano spesso al punto di rottura, come sono arrivati nel momento più infelice della storia del concilio, quando nel marzo del 1547 i legati, valendosi di una bolla segreta, di una facoltà non notificata che essi avevano, cioè in partenza il Papa si era cautelato al punto da dare ai suoi presidenti il diritto di trasferire, di decretare il trasferimento del concilio. Quando la situazione si presentò critica, perché a Trento era scoppiata quella specie di epidemia, della quale ancora si discute se era una vera pestilenza o meno, comunque un pericolo reale, almeno per il fatto che molti dei prelati italiani, sostenitori del Papa, che a Trento ci stavano malvolentieri, di fronte al pericolo del contagio, se ne andavano, nessuno riusciva a trattenerli, e così i delegati rischiavano di trovarsi con una maggioranza del tutto avversa, non più dominabile, no? A questo punto, prima che il concilio si disperdesse in questa condizione, fecero deliberare a maggioranza di voti il trasferimento del concilio a Bologna e approvarono questo trasferimento del concilio a Bologna. Con l'opposizione del gruppo imperiale, i vescovi spagnoli che protestarono facendo minoranza e non si trasferirono a Bologna, restarono a Trento pur senza far quello che avevano fatto a Basilea, un controconcilio, rimanendo semplicemente fermi a Trento fino al periodo successivo del concilio. Ecco, ho detto momento infelice quanto mai, perché in quei medesimi giorni il programma imperiale andava svolgendosi per conto suo in Germania, l'imperatore era riuscito finalmente a mobilitare la guerra contro i principi protestanti e stava ottenendo una vittoria strepitosa sopra la Lega di Smalcalda nel marzo 1547, e veniva finalmente a trovarsi nella possibilità di costringere gli stati protestanti, non dico a assumere, a rinnegare la riforma, ma a partecipare al concilio, Nel momento in cui l'imperatore si trova finalmente in condizione di costringere gli stati protestanti a venire a Trento e a partecipare al concilio, pochi giorni prima della vittoria di Mühlberg, il concilio invece si è squagliato da Trento e si è portato a Bologna. Voi capite che era gioco forza che i lavori si arenassero, d'altronde con Paolo III ormai non era possibile un'altra configurazione. Però Trento era il luogo unico in cui questo tentativo ancora poteva venire realizzato. Tant'è vero che sotto il pontificato successivo, con Giulio III, tra l'altro personalmente identico col Cardinal Del Monte, primo presidente al Concilio a Trento, cioè colui che aveva a Trento portato via il Concilio e aveva vissuto per prima persona tutta questa vicenda, no? Divenuto Papa, ripresa in mano tutta la situazione, trovò di accettare finalmente il programma di Carlo V, pur dando certe garanzie, cioè pur chiedendo all'imperatore certe garanzie, certe coperture anche da parte imperiale, che il concilio non arrivasse a rovinare la posizione della Santa Sede. E è lui che fece riportare il concilio a Trento nel 1551 e 1552 per quello che doveva essere il concilio di unione, per quello che doveva essere il momento in cui finalmente anche gli stati protestanti e i rappresentanti dei, della teologia protestante e così via, convengono per decidere finalmente insieme tutta questa cosa. Dunque Trento in realtà si comprova qui ancora, vero, come concilio libero cristiano in terra tedesca, come l'unico punto dove si può ancora provare a realizzare l'unità. Il tentativo, come sapete, fallisce perché? Perché l'equilibrio militare si rovescia proprio nei primi mesi del 52. I protestanti riescono a risollevare la testa in una ribellione che costringe perfino l'imperatore a fuggire da Innsbruck, e Trento stessa si trova minacciata dai lanzichenecchi e dalle truppe protestanti in ribellione contro l'imperatore. Il concilio deve sospendersi per forza e la questione religiosa si risolve sostanzialmente sul campo di battaglia con l'armistizio di Passavia e poi con la pace di Augusta del 1555, dove l'imperatore sconfitto deve instaurare a livello imperiale una costituzione che finora l'impero mai aveva avuto, e l'unità religiosa è fondamentale per l'impero germanico, no? Invece a questo punto si delibera che la libertà di scegliere quella forma di professione religiosa che meglio preferisce viene dalla Costituzione imperiale riconosciuta a tutti i principi dell'impero. Sostanzialmente il contenuto della pace di Augusta è questo, no? Con facoltà, dunque libertà religiosa, ma per i principi, per i sovrani di tutti questi piccoli staterelli. Libertà religiosa, loro possono scegliere la forma cattolica o protestante che preferiscono per i loro sudditi, per i rispettivi territori, per se stessi e per il territorio, no? Imponendo ai sudditi dei rispettivi territori quella scelta che il principe ha fatto, no? Naturalmente con questo la frattura religiosa è ormai in atto anche nell'impero, ma in realtà questa è avvenuta fuori dalle mura di Trento ed è avvenuta sulla maturazione di una situazione che va molto al di là di quello che entro l'ambito di Trento si è potuto decidere o discutere. Eppure, malgrado questo, il concilio torna a Trento nel 1562. Sembrava tutto morto, tutto finito, restato un torso il concilio dopo questa dispersione del 1552. I vescovi spagnoli sono tornati in Spagna, ognuno anche si arrangia ad applicare un po' di riforma come meglio può, il Papa istituisce delle commissioni di riforma, c'è un Papa riformatore molto, molto deciso anche, Paolo IV, che fa l'impossibile per realizzare in sede papale una riforma della Chiesa Cattolica, però collaudando una volta di più l'esperienza che il Papa da solo non riusciva, il pontificato di Paolo IV, che è uno dei grandi spiriti riformatori di quel secolo, no? Si conchiude in un fallimento. In realtà la ripresa del concilio diventa necessaria sotto il pontificato successivo, neanche tanto per la Germania, che ormai si sta arrangiando per conto suo, ma per la Francia, che nel suo insieme sta per passare al calvinismo, no? Dunque per evitare questo pericolo i cattolici francesi, il re stesso e così via, desiderano una ripresa della discussione. Per sé è come un nuovo concilio quello che si apre a Trento nel 1562-63, tant'è vero che ci sono quelli come gli spagnoli e gli italiani che desiderano considerarlo come lo stesso concilio che va avanti. Qui c'è di mezzo la validità delle decisioni prese nel primo e nel secondo periodo, no? Che adesso vengono calcolate come lavoro fatto da cui non si torna indietro, soprattutto nel campo delle dichiarazioni di fede. E invece la Francia, che ha altri problemi, e anche la Germania, dal suo punto di vista, desidererebbero che questo sia un concilio diverso. Il Papa, nel riconvocare il concilio a Trento, ha risolto un problema diplomatico non indifferente, che era appunto quello di professare se qui si trattava di un concilio nuovo o di un concilio dello stesso concilio. Nella bolla di convocazione questa decisione non è stata presa. Per quanto riguarda le dichiarazioni ufficiali, non è mai stato detto se si optava per l'una o per l'altra soluzione, proprio per non causare la protesta di quelli che non accettavano l'una o l'altra tesi. Qui il filone di continuità è stato portato dalla identità del luogo, dal fatto che ci si è ritrovati sullo stesso luogo e dopo un inizio che non riprendeva i lavori al punto a cui l'aveva lasciati il periodo precedente del concilio, ma cercò anche di cominciare da capo con un altro punto di partenza. Invece a questo punto, dopo qualche tempo invece fu ripreso l'ordine dei lavori al punto a cui si erano interrotti nel 52. Praticamente erano stati elaborati i decreti dogmatici su tutti i sacramenti fino rimanevano ancora l'ordine sacro e il matrimonio. Ecco, e finalmente si mise mano al capitolo molto discusso dell'ordine sacro, perché era quello che implicava anche le competenze, gli obblighi e così via relativi alla cura d'anime, i diritti dei vescovi a nominare i sacerdoti, eccetera, eccetera, no? Ci fu un biennio intero di dibattito, ma voglio dire solo questo, tornando alla questione del luogo: anche nell'ultimo periodo il posto è diventato decisivo nel qualificare questa ultima fase, pur così diversa del concilio, ancora come collegata, come continuazione dello stesso concilio, no? E per riportare a galla anche in buona parte tutta quella problematica che cercava pur di guardare alla Germania, pur in situazione diventata molto diversa e anche solidificata in tanti modi, però la vicinanza di Trento a Innsbruck, dove l'imperatore Ferdinando col suo consiglio s'era trovato appositamente anche per seguire da vicino tutto lo sviluppo delle controversie, ecco, il problema germanico e lo studio, certo più difficile e faticoso a questo punto, di cercare delle formule che in qualche maniera potessero anche venire incontro a una possibile trattativa di unione o dare in mano degli elementi, anche questo è stato il contenuto e il significato del concilio a Trento. Per questo dico la verità, io anche nelle discussioni recenti spesso e volentieri ho dichiarato che una cosa è il concilio di Trento nella sua validità astratta, nella sua complessità universale, no? Con ciò che esso conta e vale per se stesso, quello ci riguarda noi trentini né più né meno di quello che riguarda i cristiani dell'America meridionale o dell'Australia, non di più e non di meno. Ma se voi mi dite che significati porta con sé il fatto che il concilio si è celebrato non in una delle tante sedi possibili ma in Trento, allora dico, finché il concilio è a Trento, un'attenzione peculiare ai problemi della rottura dell'unità ecclesiale e del dialogo coi protestanti e direi la fede, la speranza, l'ansia di un'attività che faccia di tutto per recuperare l'unione, anche in una situazione che realisticamente era diventata incomponibile, che non ammetteva calcoli realistici di poter far qualcosa. Ecco, se il concilio fino alla fine è rimasto a Trento è perché ci sono stati fino alla fine uomini e persone che in questo sogno della riunificazione hanno sempre creduto contro anche l'evidenza più dolorosa dei fatti. Dire concilio a Trento vuol dire rivendicare un'istanza che purtroppo, ripeto, e non per colpa del concilio primariamente, come vedremo, ma per tutto lo sviluppo storico si è arenata, era irreale sperare. Ecco, però il segno Trento è indubbiamente significativo in modo peculiare in questa direzione.